scappa, cosa c'è oggi? Ti vedo, sei tutto rigido, devi essere un po' più sciolto, capito? Perché sei rigido. Vabbè, ho capito, sono rigido, a volte può servire, Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oh, Drago, troviamo un nuovo senso alla nostra presenza qui all'asilo, perché non si può andare avanti. Perché? Perché l'Italia è cambiata in fretta, adesso non ci sono più spunti per ridere dell'infantilismo. No, dici no. Non c'è rimasto più nessuno di quell'allegra banda di goliardi di prima, capito? Beh, sì, in effetti hai ragione. Dai, rischiamo, ma poi anche gli altri. Gaspare, la Russia, rischiamo di diventare un paese normale, di ridiventare un paese ed normale. Ed è un problema. Ma cosa, ridiventare un paese normale non è un problema, anzi, è una speranza. Quanta gente rischia il posto di lavoro se torniamo a un paese normale? Ma pensa a tutti gli autori satirici della TV, pensa anche a quelli che lavorano nei vari talk show politici della TV. Vabbè, si possono fare talk show politici che non siano anche dei fight club della TV. Vabbè, ma adesso sembrano delle spa. Sì, benvenuti a Ballarò, un'oasi di pace dotata di tutti i comfort. Ti fanno i massaggi, il fango, il fieno, capito? Non può mica continuare così, Drago. L'opinione pubblica ormai non può più rinunciare alle discussioni che poi degenerano in risse, in insulti. Se non c'è la rissa, scatta l'accusa di inciuccio. Vabbè, capito? Però scusa, d'accordo, non si può essere così manichei, però. Tito, ma cosa usa vuoi? Le parole correnti. Vabbè, allora non si può essere così estremisti, esagerati. Non è che se non si litiga si stanno facendo degli inciuci. Si può litigare senza fare risse. Tutto qui dovrebbe passare questo semplicissimo concetto. Si può litigare in maniera civile. È teoria. In teoria sono tutti d'accordo con te. Poi però se vai a fondo vedi che tutti, ma proprio tutti, dai giornalisti al pubblico, vogliono le risse, sì, il sangue. Vabbè, io non ci credo. Chiediamolo ai nostri ascoltatori: preferite i talk show Fight Club? Sai chi è? Ti ho chiesto, sai chi è Geminello Alvi? Non lo conosco. Sei un ignorante come una capra. Oppure i talk show Spa Centro Benessere? Tutto quello che aiuta la qualità in sanità è non solo benvenuto, ma auspicato. Ecco, allora scrivete al nostro gruppo Facebook Chiedo Asilo. Scrivete se preferite uno o l'altro, no? Prima era il ministro Balduzzi, quello di prima ancora Sgarbi, no? Sì, ma si è capito. Balduzzi, tu sai chi è Balduzzi? No, ma non importa, non fa audience. Chi è Balduzzi? E ora, bambini, e la sonnellino. Cappa, io non so se sia l'inverno o cosa, ma io ho un sonno, ma un sonno, guarda. È letargo, no? Letargo. Bambino Alberto, no, anche tu qua, no? Sì, vabbè, allora mettiti giù che sennò volano bastonate da parte di Suor Dentona, sai che è qui che ronza come il calabrone. Quindi, lo so, però io non capisco, è cambiato il governo, è cambiato tutto praticamente. Ma Suor Dentona è sempre lì al suo posto. Ma certo, cosa c'entra il governo con la suora di un asilo? Dai, bambino Alberto, su. Vabbè, adesso però non stiamo a tirare la lunga, va, questa roba inutile. Sì. Allora, qui bisogna affrontare una volta per tutte e risolvere la faccenda dei regali di Natale della Ricci. Ma ancora? Ma se ne hai già parlato, scritto, pubblicato. Vabbè, sono cose importanti, vanno ribadite. Lo so, però sembra che non sia servito a molto. Ma cosa? La gente non ha capito che si tratta di una cosa seria. Cioè, che chi verrà a vedere Babbo Natale esiste, la Ricci. Il regalo deve portarmelo veramente. Ma per forza che non hanno capito. Scusa, sulle tue liste dei desideri hai messo delle cose improbabili. I peoci, il pollo ripieno di quaglie e ripiene di pancetta. Il passamontagna nero. Allora, c'ho anche le biglie di ferro. Io ci credo che la gente poi crede che siano scherzi. Che sia una satira, scherzo. Una roba ma così no. Ma cosa c'è di strano? Cioè, vi concedo che non saranno i soliti regali banali. Vabbè, ma senti, ma tu i regali li vuoi o no? E come no? E allora ci devi dare ascolto per una volta, capito? Se non vuoi rimanere deluso, che poi sei lì che aspetti, poi non arriva niente, ti conviene chiedere cose normali, noi peoci. I giocattoli, non so, una macchinina, dei dolci per bambini, cose semplici anche. C'è la crisi, Alberto. In più devi anche chiedergli con gentilezza, non la lista di nozze su Facebook. Questo, sei sempre aggressivo. Esatto. Ma io non voglio essere aggressivo. Però suoni aggressivo. Sono sempre agitato. Vabbè, sì, però dai, stai calmo. Allora, è Natale. Sei un bambino. Devi scrivere la letterina a Babbo Natale o comunque agli ascoltatori di Chiedo Asilo. È tutto bello, no? È tutto bello. Anzi, perché non facciamo un pisolino? Voglio dire, è tutto tranquillo, tutto sotto controllo, dormiamo un po', dai. Sono agitato, non è che posso dormire. Troppo agitato per i regali, no? Drago, ha ragione, i bambini sono sempre super agitati intorno a Natale. Questi sono i guasti del consumismo, e non del comunismo, del consumismo. Però io stavo pensando che ognuno può portare il regalo che vuole, no? Infatti. Non è che quelle della lista sono solo dei suggerimenti. No, va bene. Cominciamo bene. Qualsiasi cosa ben accetta. Basta il pensiero, no? Ecco, così si fa, basta il pensiero. Quello del pensiero funziona sempre. Ma cosa? E si fa bella figura, no? No, vabbè, però... No, ma ci devi credere davvero, ma non è che sei una roba, Non puoi fingere per ringraziarti gli ascoltatori, ma bambino Alberto... Ma no, ma va! No, ci credi? Ma non è l'oggetto che conta in sé. Ma sì, ma me lo stai spiegando. Ma la persona che te lo dona. Ho capito, va bene. Dimenticavo la cosa più importante. Cosa? Il vostro regalo. Il nostro regalo. Quello lì, visto che siamo già d'accordo sull'oggetto, chiamiamolo così, con tutto rispetto, quello preferirei riceverlo in camerino dopo lo spettacolo. No, ma io non siamo d'accordo sull'oggetto, quale oggetto? Come quale? Il fiocco di neve, no? Chi? La ragazza genio, quella dei provini di X Factor. Ah, tu vorresti una ragazza in camerino? La scrittrice. Ah, sì, ho capito. È una cosplayer, sì, scrittrice. Non è mica una gruppi poi che viene in camerino. Cosa? Ma no, niente. Gruppi. Ma cosa gruppi? Ma non stare di chiedere cose. Una ragazza in camerino. Ma no, ma per giocare, no? Sì, appunto. Allora viene o no? I cinesi hanno costruito una mini Italia perfetta riproducendo in piccolo Firenze, Roma, Venezia e un sacco di altre città italiane e ci hanno messo dentro un maxi outlet. Tipo Las Vegas. Sì, però Las Vegas andava bene perché era un unicum. Adesso anche c'era la Cina. C'era anche in Italia, con attrezzo da uscita zingonia nell'autostrada. Capito, però non è esattamente la stessa cosa. Quello che mi fa riflettere è che i cinesi spendono milioni e milioni di dollari per riprodurre città che si trovano vere in un'altra parte del mondo. Vabbè, cioè, c'è anche inutili. Swiss Miniature a Lugano. A Lugano riproduce la Svizzera. In Svizzera però, non in Cina. Vabbè, cosa vuol dire? Ma la Cina è lontana, no? Il cinese medio non ha mica i soldi per venire in Italia o per andare in Svizzera o per andare a Venezia. Swiss Miniature. Miniature. Esatto. Allora il cinese cosa fa? Si compra un paio di pantaloni finto Valentino nella finta Italia, mini. E poi torna nel suo Tugurio tutto contento con i pantaloni finta Valentino. Però scusami, non è mica un gioco questo, però sembra perché costruiscono delle città finte, quello che mi fa incazzare. Vabbè, ma... L'architettura non è un gioco, l'urbanistica, cioè, sono cose serie. Non si possono costruire interi quartieri di città a scopi puramente commerciali. E poi dove lo mettiamo il cattivo gusto, scusa? Ma cos'è? Cosa? L'ultima cosa che hai detto. Il cattivo gusto. Cos'è? Belli pantaloni vinto Valentino, comprati dentro al discontalino, e poi detto tornato a casa mia, talutato di capaletta che sta lì per fare latte, e ciao capaletta, ciao capaletta, ciao capalezza. Ma caparezza? Cantante pugliese, conosci tu?